Storiacce di Raffaella Calandra. Messaggio del sindaco di Milano: state a casa, fatelo per voi e per gli altri. Uscite solo per reale necessità. Grazie. Messaggio del sindaco di Milano. Messaggio del sindaco di Milano: state a casa, fatelo per voi e per gli altri. Uscite solo per reale necessità. Le cinque giornate di Milano furono un autentico evento. L'evento è qualcosa che, per usare una definizione di Jean Baudrillard, rompe, spezza la catena delle cause e degli effetti. È uno strappo nella maglia dei fatti, uno sbrego. Quelle cinque giornate furono per Milano il momento in cui la storia, per dirla con Antonio Scurati, fece un salto e quell'evento cambiò tutto. Così ora, nella città che fino al 21 febbraio aveva vissuto di eventi ma in tutt'altra accezione, l'epidemia ha cambiato tutto. Aspettando allora che anche in questo caso, ancora una volta, dopo lo strappo ci sia il risorgimento, Milano è la città che resiste di più, la città per cui si continua a temere di più, la città che ha ancora davanti a sé una battaglia contro il virus, anche se è la prima che l'ha iniziata. E ancora una volta, attraverso la battaglia di Milano può passare la storia dell'intero paese. Può sembrare retorica questa, ma davvero, attraverso il modo in cui la capitale economica d'Italia saprà resistere e soprattutto rialzarsi, discenderà anche la direzione della storia dell'intero paese. E dire che non è mancato chi abbia letto questo colpo come una sorta di punizione proprio per Milano, per aver peccato di hubris, per aver puntato troppo in alto con i suoi grattacieli. Milano, che quindi ha persone che vivono una vicino all'altra, e se non c'era una grande attenzione, tutto questo poteva portare ad un focolaio con delle proporzioni simili come intensità a quelle che abbiamo visto a Bergamo, a Brescia, a Lodi, a Cremona, ma avendo un numero, una popolazione doppia, tripla o voglio dire dell'insieme di tutte queste province, rischiava tutto questo di avere un'ondata che avrebbe travolto la nostra città, il nostro sistema sanitario. Questo non è successo. Nell'altalena di dati e di reazioni ai bollettini quotidiani, il trend dimostra che a Milano il contagio non ha ancora ingranato davvero la retromarcia, anche se per fortuna quella bomba atomica che a detta dell'assessore al welfare Giulio Gallera si è abbattuta sull'intera Lombardia sembra aver solo in parte lambito la metropoli. Il contagio però continua a diffondersi nelle strade della città più internazionale d'Italia, quella che comunque non si è mai del tutto fermata e che ora ha davanti a sé la sua sfida più complessa. La battaglia di Milano si consuma nelle periferie alveari, dove in 60 metri quadrati vivono le famiglie. Si rinnova sui mezzi pubblici, dove ogni giorno entra chi fa le pulizie, chi siede alle casse dei supermercati, chi raggiunge gli ospedali, si prosegue in quelle fabbriche che non hanno mai smesso di funzionare perché non potevano. La battaglia di Milano si è invece già persa all'interno delle residenze per anziani. Noi abbiamo l'esigenza di avere chiarezza sull'attribuzione delle responsabilità di come si sono evoluti i fatti. Allora, da un lato vogliamo capire perché non ha funzionato e chi ha sbagliato, dall'altro che sia da scuola. Sicuramente lo scarico delle responsabilità non è il modo per risolvere la questione. Se oggi si continuano a contare soggetti che si infettano e persone che muoiono, probabilmente dipende anche dal fatto che ospiti e familiari diventano elementi di contagio per l'esterno. Fin da subito si è usato un lessico bellico per raccontare la lotta al coronavirus. Le guerre, è vero, sono tutt'altra cosa, ma noi che fino ad ora eravamo cresciuti senza conoscere le insicurezze, a quale altra parola potremmo mai ricorrere per descrivere ciò che ha ucciso centinaia e centinaia di uomini e donne all'interno di residenze per anziani, per descrivere ciò che ha fatto sentire in pericolo la nostra stessa esistenza? A Milano, in queste strutture, l'epidemia ha fatto strage. Al Pio Albergo Trivulzio, alla Sacra Famiglia di Cesano Boscone, nelle case di riposo di Corvetto, Afori, Lambrate, ancora nelle stanze della residenza Borromea di Mediglia, dove in un mese gli ospiti si sono dimezzati. 63 le vittime, compreso il suocero di Leonardo La Rocca, che con altri 34 familiari ha presentato una denuncia. La prima comunicazione dell'RSA ai familiari ospiti degli ospiti della residenza Borromea arriva il 14 di marzo, in cui parlano di 4 casi conclamati all'interno della struttura, per poi trasferire una seconda comunicazione il 16 di marzo, in cui ci comunicano che gli infetti sono 43 e che lo sanno dal 7 di marzo, si scopre che in realtà almeno i primi contagi risalgono al 3-4 di marzo. Piccolo particolare, tanti parenti sono andati in quella struttura, in realtà loro hanno chiuso la struttura il 23 per riaprirla il 26-27 fino al 3 di marzo. In questo frangente, quindi 27 di febbraio, 3 di marzo, lì dentro sono andate 74 persone a trovare i propri familiari, che non hanno saputo fino al 14 che c'erano stati dei contagi là dentro. E quindi, ovviamente si sono esposti anche loro stessi al rischio si contagio. Sono esposti, hanno esposto i loro familiari, hanno esposto magari i loro colleghi di lavoro, in chi dentro c'è la nonna di mia moglie. I miei suoceri andavano a trovarla fino al 22 di febbraio e si sono ammalati intorno al 26 di febbraio, anzi il 25 per l'esattezza. Ma noi abbiamo sbagliato per 3 volte consecutive il triage telefonico al numero verde al 1005, perché alla domanda "ma è stato a contatto con soggetti potenzialmente infetti o in posti o in zona rossa?" la risposta è stata sempre no. Perché voi ovviamente non sapevate che all'interno della struttura c'erano casi di contagio. Bravissima, piccolo particolare, mio suocero è stato ricoverato il 6 in condizioni disperate ed è morto il 29. E il 6, se avessimo guadagnato 2 o 3 giorni, perché l'informazione magari se ce l'avessero data per tempo, quei 2 o 3 giorni oggi ci farebbero raccontare una storia diversa. Ecco, ma perché era stata riaperta la struttura? Da quello che sembra è che alcuni familiari si sono lamentati di questa chiusura e volevano comunque vedere i loro parenti. I familiari firmatari della denuncia che sono stati lì dentro raccontano che quando sono entrati gli operatori non avevano mascherine, non avevano DP, non avevano niente di niente, e indistintamente si relazionavano con soggetti che poi sono risultati contagiati e poi molti sono anche deceduti, e soggetti invece che poi ad oggi sono ancora vivi. Ora di queste strutture tutti si stanno occupando, ma sono passati giorni prima che davvero si comprendesse come all'interno di queste residenze si stesse consumando una strage silenziosa, come già avevamo titolato una puntata di Storiacci ormai un mese fa. E quello che è successo o non è successo intorno a queste residenze che ospitano centinaia di persone e dove ogni giorno entravano ed uscivano altre centinaia di persone, potrebbe essere stata una delle sorgenti del contagio che in sordina si è diffuso anche nella metropoli. Solo nella residenza di Mediglia, ad esempio, come avete sentito, già in piena epidemia 74 persone esterne sono entrate e hanno poi portato fuori eventualmente il rischio di contagio. E anche quando le chiusure agli ospiti sono state totali, comunque ogni giorno, qui come al Pio Albergo Trivulzio e in tutti gli altri centri, continuavano ad entrare e ad uscire operatori e medici, lasciati molto spesso senza dispositivi e anzi minacciati in caso avessero usato le mascherine, come hanno denunciato dall'Istituto Palazzolo della Fondazione Dognocchi. Il primo caso positivo non sono stati avvertiti, ma soprattutto mi hanno fatto una rappresentazione di una realtà. Loro hanno denunciato e mi è esposto nell'atto che non solo le mascherine mancavano, ma che le mascherine gli era stato vietato di indossarlo per non impressionare l'utenza. Sarebbe una situazione di completo spregio degli interessi degli operatori sanitari e dei malati per un volgare problema di cassetta. Sulle informazioni e sulla qualità delle informazioni raccolte si giocherà gran parte della partita della prossima fase 2, quando sarà determinante riprendere alcune attività ma non mettere a rischio il contenimento del contagio. Ma proprio invece la circolazione delle informazioni in alcune realtà come le residenze per anziani a Milano non è avvenuta come avrebbe dovuto nei giorni convulsi della prima emergenza. E così questi palazzi dalle facciate color pastello che dovrebbero trasmettere serenità sono diventati i peggiori focolai del contagio. Da subito, da qui, sono arrivate le denunce sul tavolo del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano che hanno fatto partire le indagini per stabilire anche cosa non abbia funzionato nella battaglia di Milano. Noi abbiamo già ricevuto, diciamo, una decina di denunce in tal senso, diciamo che hanno come elemento comune la denuncia di omissioni di cautele a tutela dei lavoratori, soprattutto. Sono lavoratori dipendenti che in qualche modo denunciano il fatto che non erano state prese da parte dei titolari, quindi dei referenti, tutte le misure necessarie a tutela degli stessi lavoratori che casomai si trovavano ad avere a che fare con casi di contagio. Esattamente, la prima contestazione che viene fatta è quella di non tempestività nell'informazione, che avrebbe potuto in qualche modo limitare i rischi di contagio. In altri casi vengono denunciate omissioni proprio da un punto di vista di presidi sanitari. Quadro che ci si presenta che, se la mia esperienza non commette errori, ma credo purtroppo di non sbagliarmi, aumenterà, è destinato a aumentare nel tempo, si focalizzerà soprattutto su aspetti di questo tipo, soprattutto condotte omissive da parte dei soggetti che avevano una posizione di garanzia nei confronti o dei dipendenti o dei soggetti ricoverati. Quello che il procuratore diceva storiacce qualche settimana fa è puntualmente avvenuto. Le denunce sono aumentate, i casi su cui si indaga sono almeno 12 e a questi aspetti si sono affiancati altri. Le verifiche sulle direttive della Regione Lombardia, che in un'ordinanza ad esempio aveva chiesto alle RSA di ospitare per 150 euro al giorno i pazienti dimessi dagli ospedali sovraccarichi. Quando lei ha detto è stato come accendere un cerino in un pagliaio, quando si è chiesto di ospitare dei pazienti con dei sintomi, che cosa intendeva? Sarebbe stato come accendere un cerino in un pagliaio, ma ormai il pagliaio stava già andando in crisi e stava già cominciando a bruciare, perché le strutture per anziani, non essendo al centro dell'attenzione, quindi non essendo i luoghi in cui ad esempio venivano fin dall'inizio distribuite le mascherine o gli altri presidi di protezione, piuttosto che eseguiti i tamponi sui lavoratori oltre che sugli ospiti, si sono ritrovati in una condizione paradossale. Luca Degani è il presidente di UNEBA Lombardia, associazione che raggruppa 400 residenze sanitarie per anziani. Secondo lui quell'ordinanza fu chiaramente un errore e ora la procura vuole verificare anche attraverso la documentazione acquisita al Pirellone se davvero possa aver favorito la strage di anziani. Così in due giorni la Guardia di Finanza entra in due luoghi simbolo di Milano e della sua storia, in quel pio albergo Trivulzio in cui cominciò nel 92 Mani Pulite e poi nel grattacielo della regione. Ma se in quelle residenze il virus ha potuto fare strage di persone fragili è stato anche perché il personale non aveva o non poteva usare protezioni. Noi abbiamo avuto un sequestro di 70.000 mascherine che erano indirettamente finalizzate a una struttura per anziani e disabili, che sono state distribuite invece a strutture ospedaliere. Dopodiché non è una guerra tra poveri. Allora ci volevano sicuramente fin da subito le stesse attenzioni di distribuzione, ma anche di protocolli degli operatori ospedalieri. Oggi bisogna dare ospedalizzazione alle RSA per tutelare chi c'è dentro. Alcuni dipendenti hanno anche presentato degli esposti, non siamo stati per tempo informati dei primi contagi. Se è stato fatto, ha sbagliato. Quello che credo che abbia inciso in questa difficoltà è stato anche lì il tema di fare i tamponi. Io mi sono trovato in molte RSA che hanno dichiarato la sintomaticità dell'ospite, ma che poi, non potendolo portare al pronto soccorso perché non sarebbe stato accettato e non potendoci essere, e sono di questi giorni le prime indicazioni molto ben fatte per riuscire a fare i tamponi agli ospiti sintomatici del RSA, c'è stato un ritardo sicuramente nel fare il tampone agli ospiti, quindi avere la certezza della positività Covid. Diciamo che siete stati anche forse un po' lasciati senza piani e senza strumenti a cercare di difendere poi anche quelli che erano i più fragili. Noi non siamo forse anche stati capaci fin da subito, quando ne faccio una responsabilità anche di natura personale, di far capire che l'anziano era il vero soggetto a rischio. Io mi sono trovato nella condizione, che sono quasi in autodenuncia, di far acquistare mascherine facendole passare come tessuti, perché se le avessi acquistate come mascherine mi sarebbero state sequestrate. Bisognava partire da chi era più a rischio, molto di più che valorizzare solo il momento ospedaliero. Così tanti operatori delle case di riposo si sono ammalati, così tante persone a cui le notizie del contagio non sono state subito riferite hanno portato il loro malgrado anche al di fuori il virus, sui mezzi pubblici, nelle strade, nei supermercati, nelle loro case. E così i fronti della battaglia di Milano, quella che più spaventa per la sua densità di popolazione, quella che più preoccupa per il suo valore economico ma anche simbolico, in silenzio si sono moltiplicati e hanno reso più lunga questa sfida. Ma Milano la sua battaglia la sta portando avanti anche con la grande solidarietà di cui da sempre è capace. Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di storiacce. Promo 24. Sono tanti i settori in crisi a causa del coronavirus. Uno dei più colpiti è il turismo ed eventi, tra i più importanti motori dell'economia e della cultura italiana. I principali operatori del turismo chiedono a gran voce un fondo straordinario per fronteggiare la crisi. Le associazioni Astoi, Confindustria Viaggi, FTO e importanti operatori del comparto hanno promosso il Manifesto del Turismo per l'Italia, che con l'hashtag Ripartiamo dall'Italia chiede il sostegno di tutti per la ripartenza del turismo. Operatori del settore e consumatori possono aderire al manifesto sulla piattaforma change.org. Salviamo il turismo, salviamo l'Italia. Info e aggiornamenti su ripartiamodallitalia.it. Storiacce. Andiamo oggi per gli anziani, specialmente per coloro che sono isolati o nelle case di riposo. Loro hanno paura di morire da soli. Sentono questa pandemia come una cosa aggressiva. È come se Milano avesse perso le radici, per usare l'espressione del Papa. Ecco cosa è stata la strage di anziani nelle case di riposo, la perdita di tutti coloro che erano i ragazzi ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, che erano sopravvissuti a bombe, occupazioni e stenti e che ora sono morti sotto i colpi dell'ultima sfida internazionale per l'umanità. Anche a loro, che erano stati casomai proprio partigiani o che quella stagione comunque l'avevano vissuta, Milano vorrà volgere il suo pensiero nel prossimo giorno della liberazione, quando dai balconi intonerà Bella Ciao, diventato anche l'inno della resistenza all'epidemia e alla paura. Aspettando la sua liberazione anche da questo nemico invisibile, Milano, mentre ancora combatte, pensa già a quella vita del dopo che sarà molto diversa dal prima. Sa già che sarà chiamata a distinguere il necessario dal superfluo, ma Milano è una città sapiente, ricorda Monsignor Mario Delpini, vescovo della città, che in un dialogo con Storiacce lascia speranze ma non nega le inquietudini, a cominciare dalla difficoltà di colmare quella diffidenza che il virus potrebbe a lungo lasciare verso gli altri. Questa indicazione è un'indicazione della sapienza di ogni epoca e Milano mi pare che sia una città sapiente, ecco, non è che proprio siamo gente che ha perso l'essenziale per dedicarsi al superfluo, certamente molte cose che affollano i pensieri della gente talvolta crea una sproporzione tra quello che è più importante e quello che è più urgente o più immediatamente richiesto dall'aria che tira o dalle consuetudini. Quindi certamente questo invito del Papa a fare una giusta gerarchia dei valori va bene per Milano. Io devo dire in realtà che la gente di Milano mi sembra, almeno quella che conosco io, abbastanza saggia, ecco, e quindi anche per questo credo riesce a far fronte a momenti così drammatici. Questo è tipico di Milano, di essere capace di affrontare le povertà, le situazioni di bisogno con la generosità e il tirarsi sulle maniche per darsi da fare, ecco. Quindi è chiaro che poi Milano è un concetto molto complesso e quindi a Milano abitano anche degli egoismi, abitano anche delle meschinità, abitano anche quelli che si approfittano anche delle disgrazie altrui per farsi pubblicità o per trarne vantaggi, no? Quindi la città è complessa, però quello che io sperimento più frequentemente è proprio questa disponibilità a farsi avanti quando c'è bisogno e a far andare le cose bene anche quando sono complicate. Lei ha voluto pregare ai piedi della Madonnina nei giorni più bui, anche per invocare la fine della pandemia, come Papa Francesco ha pregato in Piazza San Pietro. Pensa e sente che ci sia un po' anche un riavvicinamento, un risveglio maggiore anche di un bisogno di fede in questa situazione? Ma credo che in questo è una situazione ambigua, quindi ci sono quelli che si avvicinano alla fede proprio perché comprendono che non c'è nessun altro fondamento alla speranza, e poi ci sono anche quelli che si allontanano dalla fede, dalla Chiesa, perché talvolta il dramma è guardato come uno scandalo, quasi come un'obiezione alla bontà di Dio. Quindi, come al solito, le circostanze non decidono, è la libertà che decide. Quindi anche di fronte a questa situazione c'è chi decide di andare più sulle cose serie, di trovare fondamenti più affidabili, e c'è anche chi invece trova ragioni di risentimento, di disperazione. Ecco, Monsignor Zeppini, questa emergenza diciamo ci fa stare distanti, ci impedisce nel giorno della Pasqua di condividere la gioia, ma ci ha impedito anche di condividere i lutti. In qualche modo, secondo lei, quale potrebbe essere una parola, un augurio, un pensiero anche per cercare di superare quella diffidenza anche che un po' il contagio ha lasciato, anche per il momento in cui sarà possibile cominciare a riavvicinarsi? Teme che ci sia un po' questo pericolo che resti un po' la distanza verso le persone, anche nel pensiero verso i più fragili? Sì, certo, questo è un pericolo che c'è se viene insistita la sottolineatura del pericolo del contagio. È chiaro che uno cerca di difendersi, ecco. Ora è chiaro che non è l'unico modo di esprimere l'affetto e la vicinanza, non è il contatto fisico, quindi vuol dire che alcune cautele magari sarà meglio impararle anche in momenti meno drammatici. Però insomma, qui ciò che ha tenuto lontano dai malati e dai morenti e dalle celebrazioni funebri sono le norme, ecco, più che la paura, mi pare, dei parenti o degli, mi pare, ecco, che non sia tanto un segno di indifferenza o di autoprotezione, ma piuttosto un'osservanza di norme, peraltro sensate e prudenti. Sì, senza alcun dubbio sono state le norme, però in qualche modo c'è quasi un po' il timore nei confronti degli altri come potenziali veicolo, no, di contagio, e questo potrebbe avere anche in prospettiva delle conseguenze. Questo io non so bene le prospettive come saranno, però indubbiamente un seme di inquietudine c'è, ecco, con questa immagine, soprattutto se non si vedrà un modo per sconfiggere il contagio, perché anche quando c'è l'influenza uno sa che chi starnutisce può essere un pericolo, però insomma uno dice vabbè, è l'influenza di quest'anno, quindi invece quando il male non trova un rimedio, diciamo, efficace, allora è chiaro che il sospetto è più inquietante, quindi tenersi a distanza diventa più naturale, anche se non sempre è giustificato. L'ultima cosa che le chiedo, Monsignor Delpini, è, come dire, un messaggio di speranza per tutti noi e per la città di Milano, innanzitutto pensando anche a quello che, non so se lei ci abbia già pensato, potrebbe essere la prima cosa che farebbe nel momento in cui, che farà nel momento in cui questa epidemia sarà alle nostre spalle. La mia speranza, il mio messaggio, non è tanto una rassicurazione di cui non ho i motivi, ma piuttosto un invito, ecco, a dire che quando si vede che un mondo è sbagliato, non è tanto sensato immaginare che si aggiusti da solo, ecco, bisogna mettere mano all'impresa di aggiustarlo, e quindi ciascuno, secondo le sue competenze e possibilità, può dare origine a una storia nuova se si interroga su quello che può fare. Quindi mi sembra che la Pasqua non sia per dire andrà tutto bene, ma piuttosto datevi da fare per far andare bene quello che dipende da voi. La prima cosa che io vorrei fare, se sarà possibile, dopo quando sarà finito, come finirà, non lo so, però sarebbe appunto di celebrare la messa in Duomo con tutta la gente di cui adesso sento la mancanza. Racconti di storiacce di Raffaella Calandra. In regia Paolo Corleoni. Per riascoltare questa e tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Seguiteci e scriveteci anche con vostre segnalazioni e commenti sulla pagina Facebook di Storiacce o via mail. Ci trovate anche su Instagram e Twitter all'account @RaffCalandra. A domenica prossima.